Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Io però la domanda, a quello che risponde alla domanda, gliela faccio, Chiara? Sì, lo so, tu vuoi fare una domanda schifosa, vabbè, adesso vediamo. Gliela devo fare. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi cominciamo proprio dalla domanda. Ho notato che quando mi rado la barba alla sera, mi taglio più facilmente di quando mi rado al mattino. C'è un motivo? Questa è la domanda della settimana di Luigi. Una missione durata 20 giorni, tra ghiaccio, fango e zanzare. È quella appena portata a termine dal CNR per installare una stazione climatica sulla terza cima più alta dell'Africa. Paul Dirac, lo scienziato più strano del mondo, che poi probabilmente non era così strano come sembra. Un libro racconta la sua storia. World Wide Web e scienza. Dobbiamo ormai interrogarci su come questo strumento di comunicazione riesca, con la sua potenza, a riflettersi sulle attività di ricerca scientifica. Partiamo come sempre dai contatti. Direi per mandarci di sì. Le domande. Direi di sì. Va domande bene. E anche suggerimenti, tutto quello che volete, sì. A Möbius, Möbius at radio24.it. E poi cosa abbiamo? Facebook, lì ci trovate con Möbius Scienza. Sempre scritto Möbius. Möbius. E su Twitter invece, che ormai è oltre 32.000 followers, è Möbius underscore trattino basso online. Ecco. E ora andiamo alla domanda pelosa di Luigi. Pelosa. Buonasera. Ho notato che quando mi rado la barba la sera è più facile che mi tagli rispetto a quando lo faccio al mattino. C'è un motivo in particolare? Federico, anche a te è capitato? A me sinceramente questa roba non succede, però può darsi che sia un qualcosa che riguarda il 30-40%. Chissà se c'è un fondo di verità. Anzi, aggiungo una cosa, che ci sono arrivate un po' di domande sui peli, adesso snoccioleremo. Prima diamo la parola al nostro esperto, un dermatologo dell'Università di Bologna, è qui con noi, bentornato, Massimiliano Pazzaglia. Buonasera a tutti voi. Oh, buonasera. Allora, andiamo con ordine. Cominciamo a rispondere a Luigi. Alla c'è differenza sulla rasatura la mattina piuttosto che la sera? Allora, rispondendo senza peli sulla lingua, direi. Da ma sì. Battutona, ecco. Va bene. Esattamente. No, non c'è differenza. Da un punto di vista anatomico, da un punto di vista dei ritmi circadiani per quanto riguarda la crescita del pelo o l'eventuale rispondenza alla rasatura, non c'è differenza. È uno di quei falsi miti. È un'impressione. Come i capelli, sì, come che i capelli si rinforzino tagliandoli a zero, cose di questo genere. Essenzialmente dipende da tutta una serie di procedure che possono essere più corrette o meno corrette, come ad esempio bagnare i peli della barba prima di rasarsi, lasciare agire la schiuma perlomeno per un minuto, per due minuti prima di rasarsi, perché tutte queste procedure servono per rendere il pelo più grosso e quindi più facilmente aggrappabile, più facilmente tagliabile da parte del rasoio, da parte dell'ama rasoio. Ecco, il fatto che magari uno si possa tagliare più o meno, magari dipende se è un po' più addormentato o meno, cioè non è una questione fisiologica, via. Non è una questione fisiologica, okay. Esattamente, possono essere fattori esterni, come dice giustamente lei da questo punto di vista. Ci sono, come dicevamo, alcune preparazioni, ad esempio la vecchia abitudine, come nei barbieri di una volta, di appoggiare a livello del volto un asciugamanino caldo e bagnato, serve proprio per dilatare maggiormente il poro e fare in modo che il pelo, come dicevamo prima, sia più grosso e quindi più facilmente rasabile. E quindi evitando così irritazioni e durezze del pelo. Va bene, sgomberata questa prima cosa. Ma continuiamo a parlare di peli, perché dunque Gian Pietro invece ci chiede: vorrei sapere come mai, via mail ce l'ho mandato, i peli delle braccia e delle gambe sotto le ascelle, se tagliati, ricrescono fino ad un certo punto, poi la crescita si ferma, mentre i capelli e la barba crescono in continuazione. Esatto. Allora, anche questo non è del tutto vero. Ecco. Ciascuno di noi ha una sua individualità, che è geneticamente determinata. Anche i capelli o i peli della barba non è che crescano all'infinito. Se io sto 20 anni senza tagliarmi i capelli, ininterrottamente questi capelli crescono, ma è una caratteristica genetica di ciascuno di noi. La genetica è quella cosa che ci dice che noi abbiamo delle individualità, abbiamo delle peculiarità che abbiamo ereditato dai nostri genitori. Chi ha i capelli molto lunghi e riesce ad allungarli è perché è un suo carattere genetico. Quelle bellissime modelle che si vedono con questi lunghissimi capelli. Di un metro anche. Esatto, ma arrivano anche a 1,5 metri. Lungo la schiena, certo. Lungo la schiena, tenete presente che mediamente un pelo cresce da 0,7 a 1,3 centimetri al mese, quindi fate i calcoli di quanto ci vuole per farvi giungere a questa lunghezza. È comunque una individualità di ciascuno di noi. Però dobbiamo dare atto a Gian Pietro che per fortuna sotto le ascelle non è così. Perché c'è tanta gente che... Tutte le ascelle non è così, nel senso come i peli delle braccia, come i peli del pube, arrivano ad una determinata taglia e oltre quella non ci vanno. Ecco, ma mi scusi Pazzaglia, perché questa è la domanda che dovevo farle. Ci sono molte persone che non si tagliano i peli delle ascelle. Allora io le chiedo, ci sono dei casi in cui i peli delle ascelle sono 1,5 metri? No. Un 1,5 metri no. Sicuramente c'è una variabilità che può andare da una media di pochi centimetri a 15-20 centimetri a seconda della genetica. No, Pazzaglia, 15-20 centimetri non voglio crederlo, la prego. Sì, ci sono delle possibilità da questo, però sono delle rarità, come dicevamo. Cioè, c'è qualcosa nel pelo dell'ascella che si ferma prima del capello? È come un feedback, come un meccanismo in cui è programmato geneticamente che arrivi a quella lunghezza. Più di 10 centimetri, più di 7 centimetri e mezzo non può arrivare, per dire. Ecco, no, perché poi parliamo delle ascelle, ma sarebbe più complicato. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, insomma, è una questione proprio genetica, insomma, come semplicemente di ereditarietà è genetica. Posso concludere dando un'indicazione ai nostri ascoltatori e ascoltatrici: se vanno in rete, digitano in un motore di ricerca Mariam e Beard, che vuol dire barba, troveranno le foto di una signora che si è fatto costruire ha accettato di avere un pizzetto come quello degli alpini, che adesso va anche abbastanza di moda. Ma l'aveva naturale o se l'è fatto? Sì, ce l'ha assolutamente naturale. Sono dei casi che però sono dovuti a delle disfunzioni. Sì, c'è qualcosa che non funziona. Anche un paio d'anni fa, mi sembra, una trasmissione televisiva con Jerry Scott, mi sembra di ricordare il caso clinico. Però lei è felicissima. Sì, però è un iperandrogenismo. Dopo che ci faccio i soldi con questa patologia, è un discorso, però è un discorso proprio di patologia, di malattia. Non è normale che una donna abbia... sia barbuta. Va bene, grazie Pazzaglia, diciamo che siamo molto soddisfatti. Sappiamo di questa tutto risposta. Adesso, lunghezze, tutto. Buon lavoro Pazzaglia. Buona serata. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Nella grandissima Africa ci sono soltanto 3 grandi montagne e noi stiamo per parlarvi di una di queste, ma incominceremo dall'Everest invece, che è molto lontano. Guardando adesso la webcam è tutto buio, non si vede niente, però ti assicuro che ieri sulla webcam era un po' nuvoloso. Ma è una webcam che è sull'Everest? È sull'Everest ed è stata installata lì dai tecnici dell'Everest K2CNR, che è una sezione del CNR che si occupa dell'installazione e dell'osservazione di queste stazioni meteoclimatiche nelle montagne più alte del mondo. Ne parliamo perché uno di questi responsabili è appena tornato, come dicevi tu, dal Ruwenzori, non so se si pronuncia bene, che è la terza cima più alta dell'Africa. È stata un'esperienza molto dura, adesso ce lo faremo raccontare da Gian Pietro Verza. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, andiamo con ordine, ci racconti da dove è appena tornato. Sono tornato da Luganda, sono tornato volando da Kampala, mentre invece il Ruwenzori è vicino a un'altra città che si chiama Kasese ed è un parco nazionale ed è un parco e un ecosistema particolarmente importante e interessante, perché stiamo parlando in mezzo all'Africa di un ecosistema di foresta pluviale, quindi un ambiente dove c'è un'alta piovosità e quindi dove si raccolgono grandi quantità d'acqua in basso. In alto si continua a mantenersi un piccolo ghiacciaio, si chiama Stanley Plateau, questo in particolare che stiamo studiando noi, è un ghiacciaio attorno ai 5.000 metri di quota, ma la cosa interessante è che siamo all'equatore, quindi neve e ghiaccio perenni all'equatore. Sì, la cosa interessante è che questi ghiacciai naturalmente anche loro si sono ridotti molto dall'inizio del secolo, quando gli italiani per primi salirono questa montagna. Ah, ecco. E se non sbaglio, questa montagna qui, fino a una certa altezza considerevole, è piena di vegetazione, no? Sì, è incredibile, perché siamo all'equatore, quindi abbiamo tutta la radiazione che filtra anche tra le nuvole spesse, e abbiamo dei fenomeni di gigantismo come le lobelie, che sono delle piante bellissime che crescono in forma gigantesca. Ci sono le eriche, anche quelle che crescono in forma amplificata. C'è una zona di bambù che è praticamente impenetrabile, e non dimentichiamo che ci sono i grandi animali africani. Nella parte bassa ci sono ancora degli elefanti che girano naturalmente liberi. Ce lo sta raccontando come se fosse il giardino dell'Eden. In realtà la sua spedizione è stata anche piuttosto complessa dal punto di vista proprio del lavoro, faticosa, perché anche, appunto, come dicevamo, voi siete andati lì per installare una stazione climatica. Certo, noi siamo entusiasti di queste attività, per cui cerchiamo di mettere in evidenza le parti belle, le parti piacevoli e appassionanti. Naturalmente poi portare una stazione meteorologica, che non è solo una stazione meteorologica ma anche una stazione di scambio energetico e di misure delle quantità di neve, quindi più complessa ancora, portarla lungo questo percorso che è ricco di fango, dove mediamente si cammina e si salta da un cespuglio all'altro per evitare zone di fangose dove si sprofonda diverse decine di centimetri sotto la pioggerella, per poi arrivare con gli stivali a un ambiente alpino che è quello delle sommità del Ruvenzori. Questo richiede un grande sforzo logistico. Non voglio immaginare le zanzare, mi scusi. Sì, poi naturalmente ci sono i problemi con gli animali, con gli insetti, con tutte queste cose. Fortunatamente, oltre una certa quota, poi questi se ne vanno. Non ci sono più, per cui si affronta questo. Il clima che diventa abbastanza severo nella parte alta, perché abbiamo temperature vicino allo zero con delle punte negative anche di qualche grado negativo. Senta, ma perché il Ruvenzori? Perché una montagna così al centro? Cos'è che vi interessava, con tutte le montagne che ci sono nelle Ande? Nell'ombelico del mondo, quasi. Ecco, allora, noi come WKP2 CNR, Everest K2 CNR, siamo da sempre, storicamente, da più di 20 anni, storicamente attivi in Asia, all'Everest appunto, dove c'è la piramide, il laboratorio che è un osservatorio adesso di riferimento internazionale, poi dopo anche in Pakistan, nella zona del K2, e naturalmente anche nelle nostre Alpi, anche in Sud America recentemente, ma l'Africa è un continente molto interessante, perché intanto ha attraversato l'equatore, quindi ha una latitudine particolare, è un ambiente dove esistono ancora poche informazioni climatiche, in particolar modo informazioni climatiche dei nostri ambienti, che sono le montagne più alte di quel continente. Cioè, si sa ancora poco in realtà, ed esistono pochissimi monitoraggi. Noi abbiamo cominciato nel 2006 durante una spedizione d'anniversario della salita del Duca degli Abruzzi, per cui allora installammo una prima stazione timidamente, ottenendo dei primi risultati. Ma questo ha confermato invece che quei dati erano preziosissimi, importantissimi, e ci ha stimolato ad attivarne una molto più performante, molto più completa, e anche con la trasmissione dei dati via satellite. Per cui noi adesso stiamo ricevendo ogni giorno i dati da Ruvenzori. Ah, ecco, li ricevete a casa, non è che dovete poi trasferirvi lì. Stare lì a valle, ricevete tutto qua. Riceviamo tutto qui, e questo anche a sua volta è stato uno dei problemi, perché la connettività lì non è proprio semplicissima. In più anche il clima non aiuta i componenti elettronici e l'apparecchiatura a funzionare bene, perché abbiamo umidità quasi costantemente al 100%, scende di poco e poi ritorna su al 100%. Infatti, scusi Vera, cioè, se lì si rompe qualcosa mandare un elettricista non è banale. E questo tipo di apparecchiature, come sono, molto ridondate, cioè hanno tanti sistemi di riserva, coibentate, com'è che sono protette? Sono direi lo stato dell'arte dei componenti per studi climatici che abbiamo utilizzato. Abbiamo utilizzato un sistema di alimentazione completamente ridondato, per cui può andare in avaria una parte di quello ma mantenere il funzionamento. Abbiamo delle schede di memoria aggiuntive, per cui nel caso in cui la trasmissione satellitare si dovesse interrompere, comunque andiamo ad acquisire almeno su due supporti in maniera continuativa, E poi abbiamo fatto un'operazione importante anche rispetto ai paesi che ci ospitano, che è stata quella di fare la formazione sulla manutenzione. L'abbiamo fatta invitando anche dei tecnici e degli ingegneri di Nairobi, dell'Università di Nairobi, oltre naturalmente ai tecnici e agli ingegneri dell'Uganda Meteorological Department. Quindi abbiamo creato un vero e proprio team italo-africano per la gestione e la manutenzione di questa stazione. In più il parco è entusiasta di questo lavoro, il parco dei Rovenzori ci ha promesso supporto anche con i loro ranger, per cui il fatto di avere la telemetria ci permette di valutare anche la diagnostica della stazione e di sapere in tempo reale cosa può essere necessario rimpiazzare ed eventuali interventi che si rendessero necessari. Ma cos'è che potreste scoprire? Quali sono i parametri che vi arrivano? Allora, noi abbiamo i 7 parametri classici meteorologici, quindi abbiamo la temperatura, umidità e pressione dell'aria, poi abbiamo la direzione e l'intensità del vento e poi naturalmente le precipitazioni. Per quanto riguarda la radiazione solare abbiamo un sensore molto interessante, particolare. Abbiamo un sensore che va a vedere gli spettri della radiazione visibile, quella che vediamo, ma anche di quella infrarossa. Ma la cosa interessante è che questo sensore guarda sia verso il cielo che verso il terreno. Il risultato è che questo sensore ci permette di fare delle valutazioni energetiche sull'energia in arrivo dal cielo e l'energia che poi il suolo riflette. Quindi questo ecosistema, come tanti altri ecosistemi che possono essere valutati dal punto di vista energetico, si comporta proprio come una scatola in cui mettiamo e togliamo dell'energia e naturalmente il clima determina la quantità di energia che viene messa e che viene tolta. Questo l'abbiamo imparato lavorando in Himalaya, lavorando in Karakorum, dove gli scambi energetici sono molto intensi. C'è molta energia che arriva su queste montagne e molta energia che anche viene riflessa. Beh, questo ci aiuta diciamo, a valutare, a monitorare un po' il clima globale, ma vi aspettate anche di trovare, non so, delle anomalie per cui, appunto, con le quali, attraverso le quali si possono spiegare degli altri fenomeni che magari ci ritroviamo noi qui? Certamente sì. Ad esempio, una cosa che stiamo verificando e che come guida alpina, avendo anche una preparazione tecnica di guida alpina, certo, voi sarete tutte guide alpine, è che i ghiacciai equatoriali, almeno questi del Rovenzori, che sono protetti da una foresta pluviale, stanno variando di meno rispetto ad esempio ai ghiacciai alpini. Oggi i ghiacciai alpini nell'arco di un'estate riusciamo a vedere grandi differenze nella morfologia. Questo piccolo ghiacciaio, lo Stanley Plateau, che è diventato un sesto in un secolo, però adesso sembra essere più stabile dei nostri, proprio perché la foresta pluviale e la nuvolosità lo stanno proteggendo e comunque lo stanno alimentando. Io sono salito su una linguetta di neve di ghiaccio nella parte finale del ghiacciaio tre anni fa e ancora pochi anni fa e onestamente non avrei pensato di ritrovare lo stesso percorso, ma di trovarlo fuso, di trovare il ghiacciaio arretrato. È una buona notizia. Voi siete anche quelli che hanno installato la webcam di cui parlavamo prima, è la prima webcam che ci restituisce l'immagine della cima dell'Everest, da che punto in particolare? Dov'è collocata? Si colloca su Kalapatar, che è una specie di una collina, in realtà è quasi 5600 metri, che è a ovest dell'Everest, per cui la webcam fa proprio vedere un po' il versante nord, un po' il versante ovest e un po' quello sud-ovest dell'Everest. Parliamo della cuspide terminale della montagna, cioè vediamo la piramide dell'Everest da 8000 metri fin su quasi a 9000 metri. Adesso si vede proprio la cima. Al sud, dove noi installiamo una stazione meteorologica che è rimasta tra quelle più alte del mondo. Allora, si può vedere, faremo il collegamento sul nostro sito www.moebiusonline.eu e insomma, complimenti, in bocca al lupo, ci faccia sapere qual è la prossima vetta. Senz'altro, per trovare comunque l'immagine della webcam dell'Everest basta semplicemente digitare sul motore di ricerca webcam Everest e sicuramente e arrivate voi. Ci si ottimo. Arriva. Sì, sì. Attendiamo notizie da Rovenzori, buon lavoro. Grazie, ci saremo di sentire dalla piramide dove saremo di nuovo operativi in maggio. Va bene. Grazie. Grazie. Arrivederci e buona ricerca. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sto per parlarvi dell'uomo più strano del mondo. E poi Vita segreta di Paul Dirac, che forse con questa aggiunta avete capito che si tratta di un libro che ha questo titolo, però L'uomo più strano del mondo, scritto da Gran Farmilo e edito da Raffaello Cortina in Italia. È una poderosa biografia di questo grande scienziato Paul Dirac, tanto grande quanto abbastanza poco noto, questo è il suo dato, eppure è stato veramente un gigante della scienza, della fisica in generale e certamente del scorso secolo. Per parlare di Paul Dirac ho qui con me questa sera Carlo Rovelli. Buonasera Rovelli. Buonasera. Fisico teorico, ma ormai ci diamo del tu perché scrivi un sacco di cose, sei diventato un giornalista di scienza che attraversa un sacco di temi di attualità e quindi insomma siamo in parte colleghi, non certo per la ricerca. Allora Rovelli, questo libro affronta la vita di questo personaggio che effettivamente è vero, possiamo dirlo, è un gigante ma nano dal punto di vista della conoscenza. Credo che pochissimi conoscano questo Paul Dirac, no? Sì, fra i miei colleghi è considerato secondo solo ad Einstein, certo. Scienziato del XX secolo dopo Einstein, ma credo fra le persone che non sono miei colleghi è un nome quasi sconosciuto. Io direi di provare a raccontare, perché naturalmente la biografia è molto vasta, è una vita piena anche di contatti, quindi non possiamo certo pensare di riassumere un libro, però ci sono tre passaggi che mi sembrano interessanti. Uno non riguarda la sua scienza, ma lui come personaggio. Paul Dirac è passato alla storia per tantissimo tempo come un personaggio scorbutico, scostante, che non per esempio, ecco, con chi faceva giornalismo scientifico aveva dei pessimi rapporti, gli facevano le domande e non rispondeva. Tutto questo, ecco, tu lo ricordi in un articolo che è uscito sul domenicale del Sole 24 Ore, lo ricordi ricordando un episodio, no? Durante una sua lezione un allievo, uno presente nella sala, avendo visto un passaggio che lui fa alla lavagna, dice non ho capito quella formula, e Dirac non risponde assolutamente e poi prosegue. Allora questo giustamente dice: scusi, le ho fatto una domanda, e lui risponde: domanda? Quale domanda? Allora qui c'è tutta una storia particolare. Spocchioso oppure? Con dei forti problemi psicologici che rasentano l'autismo. E noi abbiamo parlato in trasmissione non molto tempo fa di alcune ricerche sull'autismo, dalle quali viene fuori che effettivamente chi è affetto da questo tipo di patologia e non fa, cioè se gli arriva la domanda con la tonalità della domanda, ok, se gli arriva invece una cosa come quella, lui risponde ma non era una domanda, era una sua affermazione. Questa è una cosa che probabilmente ha attraversato la vita di quest'uomo e che per decenni l'ha interpretato come uno scorbutico, ma lui non era così. Lui non era uno scorbutico, era una persona con una intelligenza evidentemente straordinaria, una capacità di capire le cose su cui si concentrava assolutamente straordinaria, ma che non era capace di interagire con gli esseri umani, esattamente come gli autistici, che aveva una grande difficoltà a capire spesso delle cose completamente semplici, come per esempio il fatto che dire non ho capito quella formula significa implicitamente: per favore me la puoi spiegare, che cosa vuol dire quella formula? Esatto, e questo è assolutamente normale negli autistici, gli autistici che possono stare assolutamente in mezzo alla gente perché la patologia non è troppo grave, ma possiamo forse dire che proprio perché lui era un grande, era già inserito in un mondo di ricerca, insomma gli è andata bene, perché erano anni quelli, stiamo parlando degli anni 30, nei quali con l'autismo si poteva molto facilmente finire in un ospedale psichiatrico. Sì, io direi gli è andata certamente bene, sia perché era un grande, ma anche perché fin da giovane si è trovato in un ambiente dove la stranezza, l'ambiente universitario, in particolare l'ambiente di ricerca, in particolare l'ambiente di ricerca di un posto come Cambridge in Inghilterra, dove la stranezza era accettata e quasi apprezzata. C'è tutto uno spettro ovviamente di comportamenti autistici, come c'è uno spettro di molte difficoltà mentali, che vanno da tratti del carattere fino a forme devastanti, disastrose e molto difficili da vivere in società. Forse se Dirac non fosse stato in quell'ambiente sarebbe finito in ospedale psichiatrico. Sì, ricordiamo che allora molti che balbettavano potevano finire in un ospedale psichiatrico. Va bene, lasciamo adesso questo primo aspetto. Dimmi. Due considerazioni da fare. Sì, dimmi pure. Una è che la stranezza e l'essere diversi spesso è questione dell'ambiente in cui si è. Sì. Chi non viene accettato in un ambiente viene accettato in un altro ambiente. E secondo, che spesso la stranezza si accompagna con delle altre doti. Questo è un caso straordinario, ma non è un caso raro, in cui chi non è capace di fare una cosa è straordinariamente bravo a fare qualcos'altro. Certo. Anche proprio l'esempio meraviglioso di questo. Sì, sì, sì, hai fatto bene a sottolinearlo. Senti, allora, questo secondo aspetto invece che vorrei trattare riguarda, siamo più dentro la scienza indubbiamente, lui è un grande della meccanica quantistica, scienza di cui abbiamo parlato più volte in trasmissione, scienza molto strana, però quando lui incomincia a guardarla, tu scrivi nel tuo articolo: nelle sue mani la meccanica quantistica dà accozzaglia snaturata di intuizioni, mezzi calcoli e fumose discussioni metafisiche, si trasforma in un'architettura perfetta. Cioè abbiamo una grande scienza che poi ha avuto un'influenza fortissima, che però nasce come un gran caos. Anche questo è singolare, al di là poi di quello che ha combinato Dirac, cioè una grande teoria può nascere in una specie di tornado, no? Io direi è così che nascono le grandi teorie, si impara dalla confusione. Quando ci sono i momenti di confusione sono i momenti anche spesso in cui si sta imparando di più, e le idee si chiariscono passando attraverso un momento in cui si abbandonano le idee precedenti. Chi non cambia mai idea non sono le persone intelligenti, sono le persone sciocche. Le idee si chiariscono, si va avanti passando attraverso la confusione. La meccanica quantistica è una teoria straordinariamente bella, straordinariamente efficace, che è alla base di tutta la nostra tecnologia contemporanea. Non ci sarebbero i computer senza la meccanica quantistica. Non saremmo qui a parlarci. Dirac è stato non l'iniziatore, ma è stato l'uomo che dopo 20 anni e più, quasi 25 anni di pezzettini di comprensione molto confusi da parte di altri grandissimi scienziati, ha messo tutto insieme e ha costruito questa architettura bellissima che è la teoria della meccanica quantistica. Insomma, è come avere una cornice senza il quadro, e poi a un certo momento c'è uno arriva il dipinto unitario. Si mette in ordine. E quello che lui ha trovato è una grandissima confusione, una confusione creativa, quella confusione da cui nasce il sapere. Il sapere, penso, passa sempre attraverso un momento in cui non si capisce più niente. Soprattutto quando è profondo e quando è denso. C'è un'ultima cosa che... Io credo che gli scienziati sono quelli che sanno dire: qui non si capisce niente, non lo so, non ho capito, cerchiamo. Sì, sì, sì, è vero. Fa parte del DNA del fare ricerca, avere la possibilità di dire: è un momento proficuo perché non capiamo niente. Sì, esatto. L'ultima cosa, dicevo prima, che vorrei chiederti è invece questa. Non è facile parlare in radio, ma vediamo se ce la facciamo, perché riguarda la matematica. C'è un problema che qui direi di non entrarci troppo. Bisogna riuscire a dare una certa coerenza alla descrizione dell'elettrone, e Dirac mette giù un'equazione che dà un tipo di risultati che sono effettivamente funzionali. E quindi portiamo a casa il risultato. Poi dà degli altri risultati che non si capisce cosa sono. E appunto anche qui tu, parlando di questa storia, di questo libro, dici: e poi però a un certo momento invece queste cose ci raccontano un pezzo di... Questo è bellissimo, perché proprio la straordinaria efficacia della matematica, l'incomprensibile efficacia della matematica. Un'equazione spiega bene quello che si è capito. Dirac la trova, oggi tutti la chiamano l'equazione di Dirac, ma ha delle altre soluzioni. Queste altre soluzioni, molti colleghi dicono: beh, evidentemente l'equazione è sbagliata. Dirac ci crede, la prende sul serio e dice che le altre soluzioni devono descrivere un tipo di materia completamente nuova che nessuno ha mai visto, e poi quella materia viene trovata, è quella che oggi chiamiamo l'antimateria. L'antimateria. Dirac ha scoperto l'antimateria prima che fosse vista, per fiducia nella, diciamo, coerenza della matematica, o meglio, della coerenza del mondo con la matematica. Strumento che ci racconta qualcosa che non vediamo in prima battuta. Qualcosa che non vediamo, esatto, e finisce che la matematica ha ragione. Perché la matematica sia così efficace, forse non lo sappiamo. E forse non lo sappiamo. Una cosa un po' magica. Magica, misteriosa, suggestiva, ma continuiamo a usarla, ma è così. Va bene, ti ringrazio Carlo Rovelli. Allora, ricordo il titolo, L'uomo più strano del mondo, Gran Farmino, edito da Raffaello Cortina, e questo uomo stranissimo era Paul Dirac. Grazie e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Dicevamo poco fa con Carlo Rovelli che la fortuna di Paul Dirac è stata quella di trovarsi in un ambiente che gestiva bene le stranezze comportamentali, le diversità, oddio, con l'omosessualità poi a volte invece si andava giù pesanti, ma comunque nei casi in cui queste stranezze erano ben gestite, e questo è quello di Dirac, la comprensione di un fenomeno come l'autismo non si dava, e così lui si ritrovò con un cognome che, scherzosamente, i suoi colleghi avevano trasformato in una unità di misura, il Dirac appunto, ovvero l'emissione di una parola ogni ora, a partire dalla ben nota lentezza che Paul esprimeva nel suo parlare. A lui, insomma, interessava il linguaggio matematico, nel quale impegnava tutto il suo desiderio di bellezza. Ecco, non sembri strano, è un dato questo della bellezza che è presente nel pensiero matematico, ovvero si possono trovare diverse soluzioni a un problema con passaggi, formule, interi teoremi che sono più o meno belli. La brevità, per esempio, che è segno di sintesi, è un fattore di bellezza. Il famoso teorema di Fermat, che è stato irrisolto per 3 secoli e più, ecco, poi la soluzione si è trovata con Andrew Wiles, un matematico che però nel 1994 l'ha prodotta questa soluzione, ma ci vogliono un paio di giorni per leggersela tutta. Ecco, Dirac avrebbe detto: questo non è bello, non è bello. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Lunedì prossimo, quello che sta per arrivare, si tiene a Roma una manifestazione, un meeting che si chiama World Wide Rome, è un meeting in ricordo di Rita Levi-Montalcini, ma all'interno di questo appuntamento si tratteranno temi di scienza, quindi non è un appuntamento per ricordare la carriera e la vita di Rita Levi-Montalcini. Ci sarà una prima parte dedicata al rapporto fra scienza e rete e internet, e una seconda dedicata alle neuroscienze, e certo Rita Levi-Montalcini appartiene a questa tradizione di ricerca. Qui con noi questa sera per parlare però di scienza e rete abbiamo Ilaria Capua. Buonasera Ilaria Capua. Buonasera a tutti. Allora, lei è virologa ed è anche una delle scienziate italiane maggiormente impegnate e conosciute anche all'estero con riconoscimenti internazionali, quindi a priori complimenti per questa sua carriera. Allora, lei sarà presente a Roma e in questo appuntamento appunto del 22. Le chiedo, certo, la rete è diventata questo enorme strumento di lavoro, di indagine, di ricerca, di incontro, e quindi era assolutamente impensabile che non avesse un effetto possente, significativo sulla ricerca scientifica, al di là del fatto che appunto, come ogni tanto ricordiamo, nasce in ambito scientifico alla CERN di Ginevra come strumento proprio per fare incontrare ricercatori e ricercatrici. Però ci dica lei in che quale tipo di riflessione specifica volete portare a questo meeting romano. Ovviamente la rete ha cambiato le nostre vite e sarebbe secondo me assurdo pensare che la rete non abbia cambiato anche la scienza. Quello di cui parleremo è quello di cui, insomma, che intendiamo affrontare. L'argomento che intendiamo affrontare è appunto il beneficio a usare la tecnologia open access, le opportunità che la rete offre in termini di condivisione delle informazioni anche per il mondo scientifico. Questo, diciamo, sì, io sono una virologa, quindi mi occupo soprattutto di virus e di virus che possono provocare delle minacce per la salute pubblica e possono far, diciamo, partire delle pandemie. È ovvio che il momento in cui questi virus emergono in una parte del mondo e iniziano la loro corsa per diffondersi ad altri paesi, ad altri continenti, la tecnologia open access e la possibilità di condividere in tempo reale le informazioni su questi virus è assolutamente essenziale per combatterli. Ecco, lei fa riferimento appunto a open access, a questo termine, insomma il fatto che la rete riesce a creare contatti e diffusione dell'informazione con estrema rapidità. Sì, lei dice, nel caso di pandemie, nel caso di propagazioni di virus, c'è un momento iniziale, una porzione di tempo iniziale nel quale l'informazione è tutto, insomma, può fare un'enorme differenza. In che modo esattamente? Ma ad esempio, forse insomma, qualcuno avrà seguito, avrà sentito di questo nuovo virus dell'influenza aviaria che è presente in Cina. Sì, infatti volevamo chiederle anche di ciò. Allora, questo virus qua è un riassortante, è un virus nuovo, diciamo che ha un motore completamente nuovo rispetto ai motori che conosciamo. A me piace paragonare i virus alle macchine. Macchine. Ci sono i virus che corrono e che sono delle Ferrari e dei virus un po' più lenti, così, che usano i mezzi pubblici. Lenti, che si diffondono con minore rapidità, che mi piace definirli la 500. E comunque, il momento in cui c'è un virus che adesso diciamo è diffuso in tre province della Cina, anche a distanza di 1000 chilometri una dall'altra, è chiaro che questo virus ha delle potenzialità di diffusione al di fuori della Cina significative. Allora, per mettere a punto dei diagnostici che ormai si basano tutti su tecnologia molecolare, no? Quindi bisogna fare un'impronta del genoma del virus e creare qualche cosa di complementare, una sonda che sia in grado di identificare il virus nei diciamo prelievi, nel materiale che viene raccolto da animali o da persone ammalate o infetti. E per fare questo è ovvio che mettere la sequenza genetica del virus in rete e renderlo accessibile a 1000 laboratori che si occupano di sviluppare tecnologia di questo tipo fa sì che innanzitutto c'è una sana competizione e diciamo i laboratori più attrezzati riescono a produrre un diagnostico in tempi più rapidi, ma soprattutto poi permette di comparare le informazioni e di lavorare insieme come una squadra unica che deve combattere questa... Perché dobbiamo anche ricordare che ormai la rete è anche uno schermo con il quale si vede, si entra dentro in un laboratorio, si può stare permanentemente in contatto, quindi vedendosi, parlando con tutti gli strumenti audio video. Le chiedo però, può anche essere importante proprio per avere un monitoraggio della diffusione nelle prime settimane, quindi riuscire a cogliere nuovi punti in cui è arrivato? Sto proprio pensando al fatto che c'è anche una possibile partecipazione dal basso delle persone, insomma, o no? Esatto, no, ci sono dei gruppi di lavoro che studiano diciamo l'emergenza e la diffusione di alcune malattie attraverso l'utilizzo dei social media. Quindi e questo fu usato nel 2009, quando diciamo ci fu l'emergenza dell'influenza suina cosiddetta, per vedere la diffusione dell'infezione, quindi prima ancora di avere mamme che portavano i bambini all'ospedale, perché una mamma non porta un bambino con l'influenza all'ospedale, però il momento in cui la mamma vede che il bambino ha la febbre o ha dei sintomi un po' particolari, la prima cosa che fa è va su internet. E quindi a seconda dell'utilizzo di internet da parte di diciamo gruppi di persone che vivono in una certa zona, si riesce a capire che lì c'è qualche cosa, se non altro, di anomalo. Va bene. Allora ricordo anche che questo appuntamento sarà trasmesso su Altra TV, altratv.tv si può andare per trovare in rete, e allora l'appuntamento è lunedì prossimo, tutta la giornata a Roma. Grazie Ilaria Capo e buon lavoro. Grazie. Al centro di Milano, in quelli che si chiamano i giardini di Porta Venezia, c'è un, lo chiamiamo laghetto, ma in realtà è piuttosto grande, poi si dipana anche in dei fiumiciattoli, insomma è una superficie d'acqua non molto profonda ma piuttosto ampia, e lì la chelidra serpentina cosa fa? La tartaruga detta zannatrice, ora vedremo perché, sta facendo un po' il suo lavoro, devo dire, la difendo, nel senso che mangia. È una tartaruga molto vorace, una specie esotica, e quindi insomma fa un po' il suo lavoro, nel senso che purtroppo per cibarsi si ciba anche di piccoli anatroccoli, insomma sta facendo un po' una strage, ma diciamo che non è proprio colpa sua. Ovviamente l'episodio è abbastanza curioso per essere appunto proprio in centro a Milano, però in realtà il tema credo che sia diffuso e anche piuttosto importante. Quindi per parlarne abbiamo con noi il garante per la tutela degli animali del Comune di Milano, è qui con noi Valerio Pocar. Intanto buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Buonasera. Insomma, la descrizione che abbiamo fatto è di questa tartaruga zannatrice, che però non so se lei è d'accordo, non è proprio colpa della tartaruga, lei cerca di cibarsi, insomma. È chiaro che non è colpa della tartaruga, se è carnivora è carnivora, è il buon Dio che l'ha fatta così. Fa il problema è che sia il lì. Il problema è la irresponsabilità degli esseri umani, questo è un caso. È un caso tra i tanti soltanto, no? Nel senso che nel laghetto non c'è arrivata da sola. Ecco. Qualcuno ce l'ha messa. Qualcuno che ce l'ha messa per sbarazzarsene. Perché naturalmente sono simpatiche creature che quando sono piccole stanno tranquillamente in una vaschetta, no? E così vengono prese e nessuno dice che poi diventano grandi. Ecco, diciamo che quando vengono comprate sono grandi, come più piccole di un palmo di una mano, quasi la metà di un palmo di una mano, ma possono raggiungere dimensioni anche di 100 kg, insomma, diventano delle tartarugone molto grosse. Ci vuole il suo tempo perché naturalmente diventano così, però quando cominciano ad essere di 5, 6, 7 kg, chi ha acqua abbastanza in casa per tenersele? Evidentemente nessuno. Dopodiché vengono mollate negli specchi d'acqua cittadina. Eccolo il problema. E leggiamo che adesso non è facile prenderla, perché quando sta fuori va bene, la si vede, però come ci si avvicina, questo animale è molto efficiente, molto capace, si infila rapidissimamente in acqua e a quel punto certo è un guaio. Fa proprio il suo mestiere, mi viene da dire. Insomma, lei è fatta così. Ma anche prendendola. Non penso dobbiamo prendere con noi. Ma scusi, Pocara, ma anche prendendola, comunque il problema si sposta semplicemente in un altro specchio d'acqua, perché dove la mettiamo? Io mi rifiuto all'idea di sopprimerla. Questo non l'avevamo neanche pensato. No, ma molti sì, magari. Gli animali nocivi è in genere sopprimerli, che non è una soluzione, evidentemente, dal mio punto di vista, ma appunto il problema diventa insolubile, perché noi non dovremmo tenere mai animali esotici. Teniamo cani, gatti, conigli, che va benissimo. E anche per, diciamo, le specie che lei ha detto, gli animali domestici, ma anche questi che vengono tranquillamente venduti in qualsiasi negozio di animali, perché è possibile acquistare queste tartarughe ovunque. Ecco, lì, secondo lei, che cosa bisognerebbe fare? Ci vorrebbe un po' di formazione, un po' di informazioni in più, più curiosità, non io lo so. Sono sempre sconcertato dal fatto che se uno compra un frullatore pretende di avere le istruzioni per l'uso. Uno prende un essere vivente e non si preoccupa di sapere che cos'è, che bisogna, cosa ci si può aspettare da lui, che cosa lui si aspetta da noi. Bisogna avere queste informazioni. Ad esempio che diventa ingestibile. Uno deve sapere prima, non dopo, perché dopo è chiaro che se ne sbarazza. Certo, dovrebbe esserci quasi una obbligatorietà all'informazione che magari il negozio deve dare. Che il nuovo regolamento sugli animali del Comune di Milano, che stiamo cercando di varare, che a un certo punto vareremo, prevede esattamente l'obbligo da parte di chiunque ceda animali di un'accompagnatoria con le caratteristiche dell'animale, che anche le caratteristiche psicologiche. Perché noi spesso, in perfetta buona fede, pigliamo, che so, un cane. No? Tutti sanno cos'è un cane, immagini di saperlo trattare. E non è vero niente. Il cane è un animale molto complesso, che ha una sua psicologia molto complessa. E quindi, in buona fede, teniamo un cane e in realtà lo maltrattiamo psicologicamente, pur volendogli un bene dell'anima. E poi, insomma, se compro un alano, certamente è diverso da un chihuahua e certamente diverso da, non so, un gatto siamese. Una cosa che sarà prevista e il, diciamo, il foglio accompagnatorio lo compilerà il comune, quindi in modo che sia completo e adeguato, abbiamo anche i costi. I costi di manutenzione. Certo. I costi di manutenzione, perché un alano non è un chihuahua. No. Un chihuahua mangia più o meno come un uccellino, no, ma un alano mangia come tutto il resto della famiglia. Sì, come quattro figli, certo. Certo. Va bene, grazie Pocar, davvero. Grazie Pocar, buon lavoro. Grazie a voi. Siamo giunti alla fine, ma solo per questa settimana, ci risentiamo qui a Möbius fra 7 giorni. Buona settimana a tutte e a tutti.